camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi. Mettiti a sedere, cosa vuoi da bere, quello che hai purché sia forte. Torno tra un momento, cerco un argomento, recitare la mia parte. Già, perché c'è sempre una parte da recitare. Si farebbe molto prima se lei tornasse vestita soltanto del bicchiere. Poi tornare così bella, bella, bella, bella, bella. Nell'accappatoio e devo più quella, quella, quella, quella, quella che io immaginavo. E la camera ora è fragore. Pure lei attraverso questi odiosi facciotti immortalati in troppi poster. La bambolina è più vecchia di me, ma saranno i poster, le spalle e la voce che potrei essere suo zio. Dai, non te ne andare, vuoi un po' dormire, vorrei tanto che restassi un po'. Sì che si può fare, ma dovrei chiamare, dimmi dove hai il telefono. Dai, aprimi la porta, porta, porta, porta, porta. Mi vuoi aprire la porta, porta, porta, porta, porta. Ba ba ba bambolina, giù giù quella pistola. Ba ba ba, bene, resto qua. Cosa devo fare? Ba ba ba bambolina, ba ba, vuoi che parliamo? Yeah.